tempesta dentro il mio cuore di sabbia. Una Coca-Cola si versa sulla moquette del mio giorno. Si apre una finestra ed entri dentro me. Un puledro impazzito scalpita nella sera, corre libero in domo sul prato dei miei pensieri. Poi si accendono due fari e sono gli occhi tuoi. È caduta una stella sopra il mio altopiano, forse una cometa mi illumina e un attimo spengo la candela. È finito il giorno, sei come una tagliola che trappola per i miei sogni. Impigliate i tuoi sguardi, predati dai mille gesti, sfama il mio sorriso di seta e dubbi miei. C'è una coppa di legno in cui potrei versarti come un caldo silenzio che possa rinfrancarmi da quel bruciore in gola se chiamo il nome tuo. È lontano un vascello verso il mio destino, solco un mare calmo al vento quel tuo bel sorriso come una bandiera. È finito il giorno, la tua voce in testa come un ladro in casa, cerco una pistola ma intanto lei si porta tutto, anche la ragione. Quanta confusione in me. Vaga dentro il castello delle mie passioni, trascini una catena, non riesco a dormire e pace più